Il punto di Stefano Folli. Il tentativo di Grillo di intavolare adesso un dialogo sulle riforme con Renzi e il PD nasce da una evidente difficoltà, a sua volta figlia del risultato delle elezioni europee. Il capo dei 5 Stelle si è ormai reso conto che la rinuncia alla politica, ovvero la politica trasformata in una serie infinita di proclami, è un vicolo cieco. Solo che il tentativo di uscire da questo vicolo cieco è piuttosto goffo e soprattutto fuori tempo. Dal suo punto di vista la mossa è obbligata, ma fatta in condizioni di debolezza, e che non è mai un buon segno. Senza dubbio mette in qualche difficoltà i renziani, ma non più di tanto. Infatti il Premier stava già mettendo a punto una trattativa con la Lega, che sembra avere maggiori prospettive. Se concederà qualcosa sarà a loro, ai leghisti. Invece il suo interesse è mantenere Grillo nell'angolo in cui si trova, senza permettergli di uscire, in modo da far comprendere a quell'elettorato che prendere i voti può essere relativamente facile, ma è assai difficile usarli bene in Parlamento.